البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. Ogni mercoledì alle 17.30 su Radio Wombat. La trasmissione di oggi, come ogni mese, una volta al mese, oltre alla consueta selezione stampa della settimana, sarà interamente dedicata all'informazione. Ascolterete una rassegna stampa delle notizie per noi più rilevanti, pubblicate nel mese, tratte dalle testate giornalistiche che si occupano della Palestina occupata, sia a livello locale, sia italiano che europeo e internazionale. Oggi ne parleranno Marisa, Gianna e Claudio. Vi annunciamo che a Firenze, in via Martelli, sabato 19 dicembre, dalle ore 11 alle ore 13, si terrà un presidio per i popoli senza diritti contro tutte le occupazioni militari. Troverete il volantino con l'elenco di tutte le associazioni partecipanti sul blog della trasmissione di oggi. Prima della consueta selezione stampa della settimana curata da Amicizia Italo-Palestinese, trasmettiamo l'intervento di Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, in occasione della giornata per la Palestina del 29 novembre, alla videoconferenza dal titolo Il riconoscimento dello Stato di Palestina. Riconoscere lo Stato di Palestina non è un gesto unilaterale che danneggia o può danneggiare i negoziati, ma è un gesto di giustizia. E questo indipendentemente dal fatto che qualcuno creda alla soluzione un popolo, due stati o uno stato unico. Ma il riconoscimento dello Stato di Palestina oggi è fondamentale. Per questo noi dobbiamo agire con molta nettezza e forza rispetto ai nostri governi e alle Nazioni Unite. Dal 1980 l'Europa dice due popoli, due stati, ma in realtà abbiamo visto soltanto crescere la diseguaglianza, la disparità, la discriminazione, non uno Stato palestinese, ma in realtà uno Stato israeliano che annette costantemente territorio, che pratica una politica di discriminazione, di razzismo, di apartheid. Io penso che è indispensabile costruire la pace tra i due popoli, ma anche necessario dire con chiarezza che non sono parti uguali. In questo momento c'è un occupante e un occupato, ma il nostro sforzo è quello di costruire relazioni, e qui abbiamo cercato di farlo, tra palestinesi ed israeliani che credono nell'universalità, che credono alla fine dell'occupazione, alla costituzione di uno Stato palestinese sovrano, libero e io aggiungo laico e indipendente. Per questo ci battiamo, per questo continueremo. Grazie a questa coalizione che è stata costruita con molta difficoltà, perché sensibilità e idee diverse, ma unita nel dire che il popolo palestinese ha diritto alla vita, ha diritto alla libertà e ha il diritto di vivere sulla propria terra. بنت الغولة ولا ولد السلطان magite, magite. Dina bojt me dhe të një agite. Buongiorno Palestina, sono Claudio e vi parlo dei 5 articoli della settimana selezionati da parte di Associazione di Amicizia Italo-Palestinese, sul cui sito potete trovarli per intero e con i riferimenti alle fonti. Voglio però prima di tutto segnalare il libro L'eco delle catene, su cui c'è stato venerdì 11 un dibattito assai interessante che potete riascoltare su YouTube cercando i prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane. Ed è proprio a proposito di carceri israeliane che questa settimana presentiamo due articoli su Khalida Jarrar, parlamentare palestinese più volte incarcerata e tuttora detenuta in una prigione israeliana. Della vita di Khalida ne parla Ramzi Barud, giornalista, in un articolo che presentiamo e in cui percorre la storia e le vicende di questa donna straordinaria. Il secondo articolo è invece di Khalida stessa. Si tratta di una lettera che Khalida è riuscita a far uscire clandestinamente dal carcere e che ha inviato a Palestine Writes, che è stato un festival della letteratura palestinese tenutosi dal 2 al 6 dicembre. Ed è proprio di letteratura che parla Khalida in questa lettera. Ne parla in modo assai articolato. Parla del ruolo dei libri, della scrittura, dell'autobiografia, della letteratura, della cultura nella loro vita di carcerate. Descrive le attività culturali di studio come una forma di lotta che le detenute riescono a organizzare in carcere, la difesa di queste attività, e cita i nomi degli autori e dei titoli dei libri preferiti. L'apartheid israeliano sui bambini palestinesi. La legge sullo Stato-nazione non è un fatto soprattutto simbolico, come sostengono alcuni. Lo sanno i bambini palestinesi di Carmiel, città nel centro della Galilea, che si sono visti negare il bus di trasporto a scuola da parte di un giudice. Il giudice, dopo aver citato la legge sullo Stato-nazione, ha motivato che Carmiel, città ebraica, fu fondata per rafforzare l'insediamento ebraico in Galilea. Finanziare il trasporto di studenti arabi potrebbe cambiare lo stato demografico della città e danneggiare il suo carattere ebraico. L'articolo, scritto da una giornalista del gruppo israeliano Local Call, è stato ripubblicato dal gruppo israeliano Ebrei per la giustizia per i palestinesi. Nel quarto articolo, un altro gruppo ebraico, i Rabbini per i diritti umani, a sostegno di Khar al-Ahmar. Nel martedì del dono, ricorrenza ebraica, il gruppo Rabbini per i diritti umani chiede sostegno e solidarietà per Khan al-Ahmar. Dichiarano: siamo la voce ebraica per i diritti umani e la giustizia sociale per palestinesi e israeliani. Khan al-Ahmar è un villaggio beduino nel governatorato di Gerusalemme e per questo villaggio l'ordine di demolizione della scuola e del villaggio aveva suscitato proteste a livello internazionale. Ora un gruppo di destra ne sta chiedendo a gran voce la demolizione. Box contro l'assedio e il patriarcato. Primo campionato di box femminile nella striscia di Gaza. Il progetto è partito dalla ONG italiana CIS ed è stato realizzato con la collaborazione di palestre popolari di Roma e di Palermo. Partecipano al progetto e al campionato già 45 giovani donne palestinesi. Una di loro, Farah, ha vinto il titolo e dichiara: I miei genitori dicevano che il pugilato non è fatto per le donne. Li ho convinti a venire a guardarmi. Quando ho vinto a casa è stata una gran festa. Gli articoli che ho citato li potete trovare per intero in italiano e con le rispettive fonti sul sito di Amicizia Italo-Palestinese, Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. E con questo concludo e restituisco la linea. Gerusalemme, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Gerusalemme, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Notizie dalla Palestina, da B'Tselem, novembre 2020. Il direttore di B'Tselem al Parlamento europeo. L'Europa deve passare dalle parole ai fatti. Israele distrugge di nuovo i terreni agricoli palestinesi a Gaza, presumibilmente per sicurezza. Coloni a Burin vengono scortati da soldati che sparano lacrimogeni contro i residenti. Un bambino sviene per inalazione. L'amministrazione civile taglia e confisca le condutture dell'acqua a servizio di 12 comunità nell'area di Massafer Yatta, a sud delle colline di Hebron. I coloni attaccano gli agricoltori, danneggiano i pollai e uccidono oltre 300 polli nel villaggio di Kusra. Da Infopal dell'11 e 12 novembre. Studenti palestinesi sono asfissiati da lacrimogeni israeliani durante il corteo per ricordare l'anniversario della morte di Arafat. Esercito israeliano si infiltra nella striscia di Gaza e distrugge terreni agricoli. Michele Giorgio, 11 novembre, Cisgiordania. L'ONG per i diritti umani Yesh Din denuncia un raid di estremisti israeliani nel villaggio di Turmus Aya, danneggiate macchine agricole e tagliati tubi per l'irrigazione. Su un muro la scritta in ebraico Am Israel Chai, il popolo di Israele vive. Di Gideon Levi, 11 novembre, dal sito archive.is. Ha sparato a due innocenti palestinesi, non ha bisogno di dispiacersi, Israele lo protegge. Un soldato, sparando da una torre fortificata, ha ucciso un uomo innocente e ferito gravemente un altro, senza motivo. Ripeto, senza motivo. Nonostante tutte le bugie, le falsità e le storie inventate diffuse dal soldato e dai suoi avvocati. Se fosse stato un soldato palestinese, verrebbe condannato all'ergastolo e ad altri 25 anni, cosa che osservo a beneficio degli esperti sionisti sul segregazionismo, che dicono non ci sia in Israele perché non ci sono leggi razziali. Non c'è bisogno di alcuna legge razziale se si può applicare la legge in base alle origini etniche di qualcuno. E il soldato è un israeliano, pertanto patteggerà una condanna a 3 mesi di servizi sociali. Agenzia stampa Infopal del 15 novembre. Domenica all'alba l'aviazione e l'artiglieria israeliane hanno effettuato attacchi sulla striscia di Gaza assediata. Un aereo da guerra israeliano ha lanciato 2 missili contro un'area vicino all'aeroporto distrutto di Gaza, a est di Rafah. L'artiglieria israeliana ha bombardato 2 postazioni della resistenza nel nord di Gaza e nel quartiere orientale di Al-Zeitun. Non ci sono stati feriti. L'esercito israeliano ha affermato che i suoi attacchi su Gaza erano in risposta al lancio di razzi diretti contro la città meridionale di Ashdod e la città centrale di Rishon LeZion. Dal Mid East Monitor, 20 novembre. Israele sfratta 400 palestinesi del quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. Le affermazioni israeliane secondo cui la proprietà degli edifici e dei coloni ebrei sono infondate, ha detto Abu Diab, spiegando che le famiglie palestinesi vivono in quelle case fin dal 1956. L'esercito israeliano ha demolito 176 case palestinesi nella Gerusalemme occupata dall'inizio di quest'anno e ha approvato la costruzione di ben 17.000 unità residenziali di insediamento nella città santa. Da più 972 magazine, 25 novembre. Due anni dopo l'uccisione di oltre 200 palestinesi da parte dei soldati israeliani durante la grande marcia di ritorno a Gaza, l'esercito ha fatto ben poco, al di là del tentativo di insabbiare la sua stessa violenza. Da Sopace del 27 novembre. La grande marcia di ritorno a Gaza. 234 morti, 17 indagini, un rinvio a giudizio. Una memoria ufficiale rilasciata dal gruppo per i diritti umani Yesh Din, che si basa su numeri ricevuti dai militari, rivela che la funzione principale di questa autorità è, come sempre, quella di insabbiare le violenze israeliane. Il documento rivela che, sebbene l'autorità per l'accertamento dei fatti abbia indagato su 234 morti palestinesi, solo 17 procedimenti sono stati finora aperti, la maggior parte dei quali ancora in corso. È stato presentato un solo rinvio a giudizio, che alla fine si è risolto con un patteggiamento in cui al soldato che ha sparato è stato addebitato un reato disciplinare anziché penale. Lo stesso rinvio a giudizio non fa menzione del reato connesso all'uccisione vera e propria e al soldato è stata data una mite pena di 30 giorni di lavoro militare comunitario, una sospensione della detenzione e una retrocessione al rango di soldato semplice. E infine Arez del 6 dicembre. Mentre i casi aumentano, il principale laboratorio Covid-19 di Gaza interrompe il lavoro per mancanza di attrezzature. Jack Curie, il principale laboratorio che conduce i test sul coronavirus nella striscia di Gaza, ha interrotto le operazioni domenica a causa di una grave carenza di attrezzature e materiali essenziali, ha detto il Ministero della Salute di Gaza. Questo è l'ultimo di una serie di segnali disastrosi sullo stato della situazione medica di Gaza, a causa del continuo aumento del numero di pazienti affetti da coronavirus. Il vero numero di casi a Gaza è sconosciuto a causa dei bassi tassi dei test, ossia da 2.000 a 2.500 al giorno. La scorsa settimana circa il 30% dei test sul coronavirus a Gaza stava tornando a essere positivo. إذا جئتكم بالليل لما أدري ما هي فيا ليلى كم من حجابي مهمة إذا جئتكم بالليل لما أدري ما هي فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا مشى الركاب لياليا فيا ليلى كم من حجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي فيا ليلى كم من حجر مهما إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي خلي لي أن تبكياني ألتمس. Realizzato dalla campagna BDS Italia, domenica 29 novembre è stato presentato in un riuscitissimo webinar il dossier Embargo militare contro Israele, nato con il sostegno di Peace Link e la collaborazione del collettivo A4S. Il dossier ha l'intento di portare a conoscenza le collaborazioni di tipo strategico-militare, tecnologiche e scientifiche messe in atto da Israele con tanti paesi del mondo, tra cui l'Italia. Israele, che non ha mai firmato il trattato di non proliferazione delle armi, produce tecnologia militare che affina e monitora sulla popolazione palestinese prima di alimentare il mercato delle armi in tutto il mondo. Hanno partecipato alla presentazione Raffaele Spiga, coordinatore del gruppo Embargo BDS Italia e coautore del dossier, Sergio Carraro, responsabile parlamentare delle relazioni con BDS Italia, Angelo Baracca, docente di fisica dell'Università di Firenze, Olivia Ferruglia, dottoranda dell'Università di Torino, Antonio Mazzeo, saggista e giornalista, Angelo Stefanini, medico e docente dell'Università di Bologna, Maddalena Luridiana dell'associazione Noi Restiamo. Interventi sono stati mediati da Elena Lotte di Noi Restiamo e BDS Lombardia. Tutti gli interventi, tutti molto interessanti, tra questi emerge la visione di drammatica attualità esposta da Angelo Baracca, che rileva come l'accordo di Abramo abbia consentito la vendita di 250 miliardi di armi all'Arabia Saudita, ma Israele debba comunque essere la potenza assoluta in tutto il Medio Oriente, il super armato, paventa una non improbabile escalation militare, forse anche nucleare, e propone di collegare insieme tutte le campagne contro la militarizzazione. Interessante la disamina di Oliva Ferruglia sulle relazioni tra le università italiane e le collaborazioni tra le società israeliane e le industrie italiane. Israele ha fondato la sua economia, la sua politica e l'istruzione sulla guerra e l'università è al servizio di questa. Israele è un modello per la sinergia tra accademia e il complesso militare industriale. Da una ricerca sul programma della UE Horizon Europe 2020 si deduce che Israele partecipa con 1670 progetti in ambito civile, progetti che però vengono poi trasformati e utilizzati in ambito militare. E non sono le industrie a cercare di collaborare con le università, ma le università cercano di essere sempre più attraenti per avere collaborazioni con le industrie militari. Da notare che alla fine del dossier ci sono schede in cui vengono evidenziate le università che collaborano con i politecnici israeliani e il tipo di complicità che queste hanno. Antonio Mazzeo, giornalista, si chiede quanto dipendiamo dal sistema militare e può essere questo il motivo dell'impunità di cui gode Israele? Di fatto non c'è un solo paese al mondo che non si rivolga a Israele per acquistare armi. Pochi giorni fa sono stati sottoscritti dall'Italia due contratti da 100 milioni di euro con Israele per armamenti, tra questi in particolare per l'acquisto di droni per fare la guerra ai migranti. Tra i progetti strategici per il potenziamento delle forze armate ci sono aziende come Finmeccanica e l'acquisto in leasing di 8 aerei da raddoppiare con altri 8 degli stessi modelli che ci costeranno 2 miliardi di euro nei prossimi anni. Angelo Stefanini punta il dito sui finanziamenti ad Israele, che per esempio furono triplicati un anno dopo la caduta delle Torri Gemelle. I 3 miliardi l'anno dati alle industrie militari israeliane tornano poi in America sotto forma di tecnologia da utilizzare anche per il controllo interno, sia quello poliziesco locale sia quello alle frontiere. La Palestina è territorio di sperimentazione e di monitoraggio per testare armi di guerra non convenzionali o tecnologicamente avanzate. Dopo gli attacchi israeliani si può notare come le vendite di armi crescano esponenzialmente. Israele è l'ottavo esportatore di armi al mondo. Ovunque possiamo trovare armi israeliane, nel Salvador, Ruanda e Azerbaijan. Dal 1949 Israele ha importato anche 121 miliardi di dollari dagli Stati Uniti. Durante la presidenza Obama, Israele ha ricevuto 38 miliardi di dollari in 10 anni ed è stato il più grande finanziamento al governo sionista. Dal 2007 al 2013 la ricerca scientifica israeliana ha finanziato la costruzione di droni con 400 milioni di dollari e la polizia li usa appunto già come Frontex ha già acquistato e iniziato a usare i droni armati. Durante il periodo Covid, il settore della difesa israeliano è stato in parte trasformato in un centro di raccolta dati e informazioni mediche, creando quindi una fusione tra medicina e guerra, terreno fertile per muri di separazione e controlli biomedici. Per Maddalena Luridiana di Noi Restiamo, Israele è la roccaforte capitalistica dell'Europa, alimenta dinamiche di sfruttamento che penalizzano molti giovani e tengono sotto controllo i flussi migratori. Con il Recovery Fund, il fondo Next Generation, si vedrà un accentramento di capitali e di cervelli con finalità di emarginazione per i paesi in difficoltà e le zone periferiche. L'Italia, partner di eccellenza dello Stato di Israele. Le università italiane, riformate dall'Unione Europea, sono sempre più simili ad aziende, complici e asservite al profitto e agli interessi privati. Il dossier può essere scaricato dal sito di BDS Italia. Buongiorno Palestina, sono ancora Claudio per alcuni aspetti sul piano internazionale. Francia. La Francia sfida la sentenza della Corte europea che sancisce il diritto di boicottare Israele. La decisione è stata unanime ed è avvenuta a giugno del 2020. È stato un duro colpo agli sforzi di Israele di mettere a tacere i suoi critici. Infatti la Corte europea ha annullato le condanne penali contro 11 attivisti per i diritti dei palestinesi. Macron però insiste e tira dritto sull'antisemitismo. Germania. Abbiamo citato spesso quello che succede in Germania e continueremo a farlo, anche perché quello che succede in Germania nei confronti degli antisionisti è una vera e propria caccia alle streghe. Tuttavia a Berlino, all'Accademia delle Belle Arti, è stata creata una scuola per disimparare il sionismo. È stata organizzata da un gruppo di israeliani che vive a Berlino. L'ambasciata israeliana, ovviamente, ha immediatamente accusato la scuola d'arte di alimentare l'antisemitismo contro lo Stato di Israele, contro lo Stato ebraico. Italia. A Milano rinviati a giudizio gli antisionisti accusati di odio razziale, accusati anche di odio razziale, per aver contestato le presenze delle bandiere dello Stato di Israele alla manifestazione del 25 aprile del 2018. La prima udienza sarà l'11 gennaio 2021. Rai News, che sa fare la sua parte, ha riportato che l'inviato delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, Nikolai Mladenov, si è detto molto preoccupato per la decisione di Israele di costruire oltre 1200 nuove case in un insediamento ebraico a Gerusalemme Est, il che confermerebbe l'impossibilità di stabilire uno Stato palestinese contiguo. Sul lato della comunità europea, ancora, dalla comunità europea Israele poppa un bel po' di denaro, ricordiamolo, l'Unione Europea viene osteggiata in tutti i modi. Ai rappresentanti dell'Unione Europea è stato impedito di visitare l'insediamento ebraico di cui stavo parlando prima a Gerusalemme, e di tenere in questo insediamento ebraico una conferenza stampa. Regno Unito. Il nuovo leader del Partito Laburista, Keir Starmer, ha dovuto accettare, ob torto collo, la riammissione del suo predecessore, Jeremy Corbyn, nel Partito Laburista, piegandosi così al responso del Comitato Esecutivo Nazionale. Starmer aveva accusato Jeremy Corbyn di antisemitismo in quanto Corbyn sostiene i diritti dei palestinesi. Parlando a una rivista ebraica, la rivista Jewish News, Starmer ha detto: "Io sostengo il sionismo". La moglie di Starmer è avvocata di fede ebraica e così i suoi figli e hanno parenti a Tel Aviv. Starmer non è ebreo, ma è sionista senza se e senza ma. Stati Uniti. Uno dei fedelissimi di Trump, recentemente collocati al Pentagono e che ha voluto mantenere l'anonimato, dichiara che la lobby pro Israele negli Stati Uniti fa diventare assai ricchi coloro che sostengono Israele. L'articolo era su Haaretz. Troa, un'organizzazione rabbinica americana per i diritti umani e che rappresenta oltre 2.000 rabbini e le loro comunità, ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna le recenti dichiarazioni del segretario di Stato Mike Pompeo, il quale ha classificato il movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, BDS, come antisemita. Il direttore esecutivo ad interim di Amnesty International statunitense, Bob Godfellow, dichiara dal canto suo: "Rifiutiamo un uso politico del termine antisemitismo". Negli Stati Uniti la chiarezza si fa strada anche tra i parlamentari. La candidata al Senato democratica della Georgia ha detto chiaro e tondo che Israele è uno stato dell'apartheid. Le votazioni in Georgia, in cui lei è candidata e che sono determinanti ai fini della maggioranza in Senato, saranno il 5 gennaio. Viene stimato che sarà determinante il voto degli ebrei. La parlamentare statunitense Betty McCallum parla alle Nazioni Unite e dice: "Sono legittimi i sogni del popolo palestinese di libertà, giustizia, uguaglianza e autodeterminazione". Questo tra i democratici. Al contrario, tra i repubblicani, la nuova stella nascente del Partito Repubblicano, che è un 25enne eletto nella Carolina del Nord, certo Madison Hawthorne, sostiene che il suo intento è quello di convertire ebrei e musulmani. Con questo concludo e restituisco la linea. Gerusalemme, i cayalami, lo nolose, hambe nami, zumangishilana, dawoyami, aikolana, busowami, aukolana, lo nolose. Da Da The Times of Israel's Daily del 18 novembre 2020. L'articolo registra un report abbastanza dettagliato su manovre di guerra israeliane al confine con la Siria. Veri e propri attacchi che, secondo Israele, dovrebbero servire a lanciare un messaggio all'Iran affinché lasci il paese e, nel contempo, un messaggio alla Siria, che sarà ritenuta responsabile per aver permesso a Teheran di mantenere una presenza nel suo paese. Israele considera la presenza militare iraniana in Siria come una minaccia inaccettabile. Dall'inizio della guerra civile del 2011, l'esercito israeliano ha lanciato centinaia di attacchi in Siria per contrastare il trasporto di armi avanzate e rivoluzionarie a gruppi definiti terroristici nella regione, principalmente Hezbollah. L'Osservatorio per i diritti umani, un'organizzazione pro-opposizione con sede nel Regno Unito, ha detto che 10 persone sono state uccise in questi attacchi, alcuni dei quali iraniani. Ma Israele sostiene che l'osservatorio non è affidabile e che in passato è stato accusato di gonfiare e persino inventare cifre di vittime. Da World Israel News, un articolo di Ariek Savir del 29 novembre. Un portavoce dell'Unione Europea ha rilasciato sabato una dichiarazione in cui ha affermato che l'assassinio dello scienziato Mohsen Fakhrizi il 27 novembre scorso è un atto criminale e contrasta con il principio del rispetto dei diritti umani che l'Unione Europea rappresenta. Il leader dell'opposizione di Israele, membro della Knesset, Yair Lapid, ha avuto parole dure per l'Unione Europea dopo la sua condanna dell'assassinio dello scienziato. Lapid ha risposto dicendo che il fatto che la UE condanni la legittima eliminazione dello scienziato nucleare iraniano invece che i tentativi dell'Iran di ottenere armi di distruzione di massa ed esportare il terrorismo in tutto il mondo è, ha ripetuto, un'espressione di bancarotta morale e pura codardia. Un alto funzionario israeliano ha detto che Fakhrizi era uno dei peggiori nemici di Israele e senza di lui l'Iran non avrebbe ottenuto ciò che ha fatto nella tecnologia dei missili balistici a lungo raggio. Per quanto riguarda la sua morte, ha aggiunto che è difficile immaginare che l'Iran sarà in grado di trovare chiunque con le sue capacità di sostituirlo. Iranian News scrive da Teheran: Mohsen Fakhrizadeh è stato assassinato in un attacco terroristico nei pressi della capitale Teheran venerdì 27 novembre. Anche la squadra di sicurezza che protegge gli scienziati iraniani è stata ferita e trasferita in ospedale. La guida suprema della rivoluzione islamica dell'Iran, l'Ayatollah Al-Khamenei, ha esortato tutte le autorità competenti a mettere due questioni chiave all'ordine del giorno. In primo luogo, dare seguito a questo crimine e infliggere la punizione per coloro che l'hanno perpetrato e l'hanno ordinato. Secondo, dovrebbero anche seguire gli sforzi scientifici e tecnici compiuti dal martire Fakhrizadeh in tutti i settori in cui stava lavorando. Il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha affermato che tali crimini non minano la determinazione degli iraniani a continuare questo percorso glorioso e potente. Come il leader, anche il comandante ha espresso le condoglianze per il martirio del grande scienziato iraniano, ucciso, così ha detto, in un attacco terroristico progettato e diretto dal regime sionista, terrorista e uccisore di bambini. Israele fornirà per 5 anni i sistemi di sicurezza alla missione dell'ONU in Mali. Un interessante articolo ricco di particolari tecnici sulle nuove strategie militari che ci evidenziano quali sono i rapporti europei con i grandi gruppi industriali e militari israeliani. Scopriamo che saranno alcuni di questi, la Israel Aerospace Industry, per esempio, a fornire i sistemi di sicurezza e di intelligence per la difesa delle installazioni militari nella missione delle Nazioni Unite in Mali. Questo perché hanno firmato un contratto con l'ONU per assicurare la protezione esterna delle numerose basi utilizzate dalle forze di polizia e dai reparti militari assegnate alla missione internazionale MINUSMA, la cosiddetta missione di stabilizzazione politica del Mali. La durata prevista del contratto è di 5 anni. Sui particolari tecnici dei raffinatissimi armamenti bellici andate a leggere l'articolo ben congegnato su Antonio Mazzeo blogspot.com. Aggiungo solo che tra queste componenti belliche fornite da Israele compaiono soprattutto i velivoli aerei a pilotaggio remoto, gli Heron, l'Ercole della mitologia, utilizzati dalle forze armate israeliane nelle operazioni d'attacco a Gaza, Libano e Siria, e poi in mano alle agenzie europee Frontex ed EMSA, a cui è affidato il controllo e la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. In aggiunta ai droni indispensabili per l'operazione di contenimento dei flussi migratori del Mediterraneo. Questo solo come esempio di una tempestiva applicazione di quanto già denunciato nel dossier embargo contro Israele, di cui vi abbiamo parlato all'inizio, a proposito di dove e come vengono monitorati e testati gli armamenti israeliani per poi essere venduti per scopi simili altrove. Alla forza MINUSMA contribuiscono con proprie unità militari e di polizia 57 paesi e per rimanere in casa nostra, se ciò ci può consolare, sempre secondo Africa Intelligence, fonte dell'articolo, l'Italia invece assegna annualmente alla missione internazionale solo 7 ufficiali dell'esercito, impiegati quali personale di staff nel quartier generale militare a Bamako. Mohamed Bakri, attore e regista, fa ancora parlare di sé, ma questa volta non per se stesso. Dopo che nel 2018 era stato processato per aver documentato il massacro del 2002 con il film Jenin Jenin, portando alla luce una delle pagine più tragiche dell'operazione Scudo Difensivo, che fu lanciata da Israele tra il marzo e l'aprile del 2002, e che ha comportato oltre 500 morti, migliaia di feriti, invasioni nelle diverse città palestinesi, oggi Bakri vuole attirare l'attenzione su una delle ONG più coraggiose che sta attualmente lanciando una campagna di raccolta fondi. Zokrot è pioniere straordinario, lavora per far conoscere la storia dei palestinesi, chiedendo che vengano riconosciute le ingiustizie perpetrate contro il suo popolo da parte di Israele. Ma la particolarità di questa ONG è che il pubblico a cui si rivolge sono gli ebrei israeliani, Sokrot è la prima associazione ad organizzare per gli israeliani tour educativi nelle comunità palestinesi. Sokrot ha raccontato la loro storia, la vita prima della Nakba e le circostanze dello sradicamento dei palestinesi, aprendo gli occhi a migliaia di israeliani su ciò che sta dietro alle molteplici rovine invisibili in tutto il paese, spesso non lontano dalle case dei partecipanti al tour. La sua attività è una sfida e intacca le abituali percezioni sioniste e israeliane, portando alla luce coloro che sono oppressi ed evocando ciò che molti preferirebbero negare. Questo è il nuovo appello dell'attore e regista Mohamed Bakri e lo trovate su Assopace Palestina. Di Shira Kadari Ovadia su Haaretz del 19 novembre 2020 un articolo dal titolo Un'università israeliana dà crediti agli studenti che lavorano con un gruppo di estrema destra. L'Università di Ben Gurion nel Negev dà due crediti agli studenti che fanno volontariato con il movimento di destra Im Tirzu. Im Tirzu, fondato nel 2006, mira a rafforzare e promuovere i valori sionisti in Israele e una parte significativa della sua attività consiste nel combattere i docenti universitari con opinioni di sinistra. Nel 2005 l'attività del movimento nel campus dell'Hebrew University venne sospesa per un mese, dopo che i suoi membri avevano interrotto la lezione di un docente che li aveva paragonati ai nazisti. Nel 2017 Im Tirzu ha creato una hotline per segnalare docenti che esprimevano opinioni di sinistra e due anni dopo ha pubblicato informazioni su circa 80 docenti di diverse istituzioni sui quali il gruppo aveva ricevuto lamentele. La rassegna stampa mensile finisce qui, ma prima di passare ai consueti brani musicali, vi informiamo che questa è la nostra ultima trasmissione dell'anno e che riprenderemo con la stessa frequenza da mercoledì 13 gennaio. Ma in questo periodo di vacanze blindate, Buongiorno Palestina non vi abbandonerà del tutto e ogni mercoledì, sempre alle 17.30 per un'ora, vi offrirà come alternativa a interviste, notizie e recensioni una carrellata di musica orientale. Se il 2020 è segnato da una pandemia globale, è segnato anche da un altro fenomeno molto contagioso, proveniente dall'Africa, che ci regala però un suo piccolo sorriso, la Gerusalemme Dance Challenge, che invade il pianeta. Com'è nato questo ritmo? Sembra sia andata così. Nel 2019, Master KG, DJ sudafricano Kaogelo Maoji, ha contattato il cantante Moncebo Zikode in modo che potesse registrare una canzone che aveva in testa da molti mesi nel suo studio di Johannesburg. I testi sono in Zulu e incomprensibili alla maggior parte della gente, ma la canzone è diventata virale in breve tempo in tutto il mondo. Quindi ascolterete e inevitabilmente ballerete il Masaka Kids Africana Dancing to Gerusalemme. Ma prima di salutarvi e di augurarvi buone feste prima del tormentone, ascolterete tre brani di Suad Massi tratti dal suo ultimo album del 2015, El Mutakallimum. Nell'ordine Yarawi, il narratore, Fileila, nella notte, e Aena, occhi. Ascolterete anche Marrakeb di Marwan Abado. E con questo vi salutiamo, vi auguriamo buone feste e vi diamo appuntamento al 2021. Inshallah! Please welcome Suad Massi. You're a weird. Magita, Magita. Dina boyd me detenia, Magita, Magita. كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار نمنو كل حكاية حكينا الجنة حكينا النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيت ما جيت دينا بعيد مدى الدنيا حاجيت ما جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية كي الراوي كي ما حكى ما تزيد ما تنقص من عنده كالي شفا وعلى باله حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجي جيت دينا بعيد مدى الدنيا حاجيت ما جيت كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأياما لا نخشى على اللهو ناهية ويوم كظل الرمح قصرت ظلا بليلى فلهاني وما كنت لاهية بثمدينا لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تسجى المطيا واجيا فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لما أدري ما هي فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لما أدري ما هي فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا فليت ركاب القوم لم تقطع الغضب شركة بلياليا. فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لما أدري ما هي. فيا ليلى كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لما أدري ما هي. خلي لي أن تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكاليا. فما أشرف الإفاع إلا صبابا، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله شتتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. فقال أخي السكن توفير المهن الرغيف واللبن وأين تأمين السكن وأين من يوفر الدوار الفقير دون ما ثمن حمل الحنون البحر وبيتو كيني نزل البحر وبيتو كيني يا ربي يرجع سالم لهالعيني لهالعيني لهالعيني لهالعيني لهالعيني نزل البحر وبيتو بريد نزل البحر وبيتو بريد يا ربي يرجع سالم من هالطريق من هالطريق من هالطريق من هالطريق من هالطريق نزل البحر لولح محرمته نزل البحر لولح محرمته لولح محرمته لولح محرمته Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawoyami, alikolana, buso wami, aukolana. Jerusalema. Ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawu Yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami, alikolana, buso wami, aukolana. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawo yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami, alikolana, buso صوامي او كلنا جيروساليما اي خيالامي اي لونولوزي Shilana Jerusalem ikayalami kilo noloze uhambe nami zungangishilana dawu yami alikolana buso wami au